25 aprile l'alba cominciava a Berlino dell'Europa l'ultimo respiro. Un migliaio di giovani attorno a un bunker da tutta Europa venuti a morire con te Jean, venuto dalla Francia con i tuoi 20 anni e la speranza di poter forgiare l'Europa della libertà con la certezza di morire per la civiltà. Un anello di fuoco ti stringeva d'assedio, un anello d'oro stretto al tuo dito, pegno di un amore che già tu sai. Amore, amore che non rivedrai mai. Una croce di ferro sul petto, il mitra stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto. Ma era l'Europa che moriva con te. E mentre solo tra l'odore del sangue guardavi rossa in faccia la morte, la tua voce tranquilla parlava così. Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia, mentre scivola lenta la Senna. Passeggiare lungo gli Champs-Élysées tra i colori e il profumo dei fiori, il sorriso di lei t'accompagna incorniciato tra quelle labbra dipinte d'arancia. Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia.